dell'altra Europa. Sabato da Federico Taddia e buon Natale anche oggi, 26 dicembre. Siamo qui in onda con una puntata speciale dell'Altra Europa, una puntata speciale perché, beh, intanto ascolteremo molte sonorità europee, sonorità festive che ci accompagneranno in questa sorta di calendario di fine anno. Andremo a cercare un po' di fotografie, un po' di notizie che hanno punteggiato questo anno europeo. Lo faremo con tante firme e tante voci autorevoli per fare un po' il punto, l'inventario dell'Europa che è stata. Quindi le foto poi le potrete vedere in diretta praticamente sul nostro profilo Twitter, sul mio personale chiocciola Federico Taddia e sulla mia pagina Facebook. E partiamo quindi e diamo subito il benvenuto alla prima voce di oggi, a Tonia Mastrobuoni, inviata del quotidiano La Stampa a Berlino. Ciao Tonia, buon Natale. Buongiorno, buon Natale anche a voi. Allora, insomma, non è facile, credo, scegliere tre immagini, tre fotografie, tre notizie per riassumere un anno, però tu l'Europa la segui quotidianamente, quindi ti abbiamo chiesto questo sforzo. Quali sono le tue tre immagini? Allora, la prima è ovviamente un'immagine che contiene Angela Merkel, perché secondo Financial Times e il Time è il personaggio dell'anno, è la persona dell'anno, però è una foto un po' particolare, perché è uno screenshot, sì. È un fermo immagine di un video che ha fatto il giro del mondo, in cui Angela Merkel spiegava a una ragazzina palestinese in una scuola perché insomma poteva essere respinta verso il suo paese, che le leggi in questo erano molto chiare, molto rigide, e questa bimba palestinese a un certo punto ha cominciato a piangere, sì. E la cancelliera è sembrata comunque irremovibile sul fatto che bisogna rispettare le leggi, che le leggi prevedono in certi casi respingimenti, bla bla. Allora, quella foto, quell'immagine ha fatto il giro del mondo, perché molti commentatori hanno detto che la cancelliera, accidenti, è una donna veramente poco empatica, è irremovibile, è fredda. E allora, secondo alcuni, quell'episodio è stato un momento chiave per Angela Merkel nella sua cosiddetta svolta di metà anno, no? Sappiamo, sì, che a un certo punto, quando sono arrivati centinaia di migliaia di profughi via Balcani verso la Germania, Angela Merkel ha adottato una linea estremamente generosa nei confronti dei profughi, ha detto sostanzialmente: dobbiamo lasciare le porte aperte, non possiamo dare un limite ai profughi, bla bla. È una roba che ha scatenato altrettante polemiche, perché molti stati adesso si sentono appunto che lei ha dato un effetto aspirapolvere. Però probabilmente quell'episodio, quell'immagine Merkel, come dire, cattiva della bambina palestinese, che in quel momento si univa alle immagini che diffondevano molti giornali, molti commentatori su la Germania cattiva con la Grecia, eccetera eccetera, cioè era l'estate scorsa, vi ricordate? Esatto, certo, non tanto tempo fa. Quindi insomma un contrasto, no, tra la Merkel cattiva e queste lacrime, e la Merkel invece che diventa accogliente. Tu la conosci molto bene Angela Merkel, è davvero cambiata o sono tante facce della Merkel che convivono tra loro? Dunque, io penso che lei sia cambiata davvero. Molti dicono è testarda, e quindi si è fissata con questa storia del nessun limite ai profughi e non vuole altri invece dicono no, no, diciamo che dalla Merkel che conoscevamo, che è un personaggio politico straordinario perché è un talento dal punto di vista tattico, micidiale, perché peraltro Merkel quest'anno compie 10 anni da cancelliera, quindi altro anno fatidico, motivo per cui un anno fatidico per lei. Però tutti hanno sempre detto una visione troppo corta, avrebbe detto Dante Alighieri, insomma un'incapacità di guardare oltre il proprio naso. E invece questa roba dei profughi sembra segnare una svolta nella sua carriera politica, cioè Merkel insiste anche contro una parte del suo partito importante sul fatto che noi dobbiamo accogliere questa sfida, primo perché in Europa e in Germania abbiamo un problema demografico, cioè questi migranti che arrivano a centinaia di migliaia, a milioni verso l'Europa, verso la Germania, in qualche modo correggono la curva demografica, che è una curva naturalmente che scende, no? Perché sì, sono popolazioni che invecchiano, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questo secondo Merkel, questo è un primo motivo per cui bisogna accoglierli. Il secondo motivo è un motivo naturalmente economico, perché la Germania, e quindi forse un po' egoistico, è un paese al momento a occupazione piena, come si suol dire, cioè un tasso di disoccupazione molto basso, quindi la Germania è capace anche di assorbire questi profughi. E quindi insomma c'è anche un ritorno, tra virgolette, economico. E Tonia, le altre due fotografie invece che hai scelto per quest'anno? Dunque, una fotografia è quella dei matrimoni gay decisi in un paese cattolicissimo come l'Irlanda, che in qualche modo ci lasciano un po' senza più giustificazioni, perché siamo l'ultimo paese in Europa. Credo che in queste ore si stia addirittura anche approvando in Grecia una legge sulle unioni di fatto, quindi insomma noi italiani rimaniamo ultimi in Europa a non avere alcun tipo di diritto per chi omosessuale, ma anche eterosessuali, perché le coppie di fatto, come dire, sono forme di sì, sì, insomma, però, tutele al di là delle matrimoni tradizionali. Esatto, però è ovvio che in un paese in cui gli omosessuali non hanno alcun diritto, ecco, il fatto che siamo gli ultimi nell'Occidente civilizzato a non avere alcun diritto per gli omosessuali è veramente una vergogna. Quindi io direi che quella foto dell'Irlanda è un messaggio soprattutto per noi in Italia. Mi piace molto la didascalia, non abbiamo più alcuna giustificazione, mi sembra insomma che racconta tutto. La terza invece. Dunque, la terza è una foto di inizio anno, sì, ed è la foto che rappresenta, diciamo, posso sceglierne una e mezzo, due quasi, assolutamente, però dello stesso evento. Dunque, è la foto che rappresenta i capi di Stato e di Governo dopo gli attentati a Charlie Hebdo a gennaio a Parigi, sì. È la foto simbolo di una Europa unita. Cioè è una foto in cui a braccetto appunto marciavano tutti i capi di Stato e di Governo, ed è un segnale forte contro il terrorismo, no? Noi ci siamo svegliati quest'anno con appunto il terrorismo in casa, ben due volte ha colpito Parigi, ma insomma siamo ormai in un clima così di preoccupazione, di ansia perenne, perché abbiamo capito che queste crisi che si trovano alle porte dell'Europa non sono crisi lontane, sono crisi appunto vicinissime e che sono ormai approdate anche in casa nostra. E quindi questo è un po' un monito a rimanere uniti, no? In Europa contro questa minaccia del terrorismo, ma anche di affrontare queste crisi come appunto la guerra in Siria con realismo, con responsabilità, con senso di responsabilità. Ricordiamo che dopo sono successe tante di cose, soprattutto dopo la seconda ondata di attentati, sappiamo che la Francia è lì con le armi, sappiamo che è affiancata dalla Gran Bretagna, sappiamo che persino la Germania ha deciso di partecipare senza una missione offensiva, ma comunque con strumenti di cognizione, eccetera, eccetera. Quindi questo è una presa d'atto, da un lato questa foto, una presa d'atto, e dall'altro di nuovo un monito a restare uniti, no, in questa fase così difficile. E la seconda foto, che fa parte di quella prima, è una foto in cui Angela Merkel, sempre, anche quella ha fatto il giro del mondo, la dura Angela Merkel, che si appoggia, che appoggia la testa alla spalla di François Hollande, quasi in un gesto di abbandono, in realtà in un gesto di empatia, appunto, il primo forse di quelli poi sono seguiti durante l'anno. Di questa nuova Angela Merkel. Sì, di questa nuova Angela Merkel. Tonia, grazie davvero per aver scelto queste tre foto e per averci raccontato queste tre notizie che in effetti punteggiano un anno un anno difficile per la nostra Europa. Grazie davvero, buon 2016. Ciao Tonia, a presto. Grazie a voi, buon Natale. Adesso ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Nettene blir lange og kulda setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Heisan og hoppsan og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisan og hoppsan og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad. Ja, musemor er flittig, hun tar et stykke kull og sverte tak. Una canzone tradizionale norvegese in questa puntata che stiamo dedicando all'Europa che è stata, però una puntata anche delle feste, quindi abbiamo proprio scelto di avere questa sorta di playlist con le canzoni natalizie di tutta Europa e tante voci che ci stanno offrendo, dando e condividendo con noi tre immagini che riassumono un po' il 2015 dell'Europa. Abbiamo il piacere di avere con noi ora Evelina Jelenkovska, capo settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, buon Natale, ben ritrovata all'altra Europa. Ciao, buongiorno, buon Natale. Allora Evelina, come sempre tu hai un po' il compito di dare la voce ufficiale dell'Europa, un anno intenso, un anno complicato da tanti punti di vista, però anche un anno bello, perché come sempre ci sono poi anche le opportunità e le possibilità che l'Europa mette sul piatto. Hai trovato tre immagini, tre scatti che secondo te meglio di altri raccontano quello che è successo? Sì, ci ho provato, anche se devo dire che effettivamente sono stati drammatici. Sceglierne tre non è stato facile, ma ho adottato la chiave di quelli che sono stati più discussi, più dibattuti nell'ottica europea. Quindi certo. Partendo da un'immagine forse un po' più pessimista, almeno due su tre, cerchiamo di arrivare alla notizia, diciamo, invece con tante speranze. Da cosa partiamo? Allora, io partirei, infatti, la prima immagine, Charlie Hebdo, credo che non possiamo prescindere. Gennaio 2015 passerà sicuramente alla storia per questa triste vicenda che ci ha fatti capire tutti quanti quanto siamo vulnerabili e quanto abbiamo bisogno di essere più uniti in quello che è la lotta contro il terrorismo e in generale di assicurare o di procurarci più sicurezza a noi europei. Quindi diciamo che la risposta un po' a questo è stata l'agenda di sicurezza che ad aprile la Commissione ha presentato come proposta, con un pacchetto di misure che comprende tutta una serie di elementi che da qui al 2020, se implementati, diciamo, portati avanti anche dal Consiglio e dal Parlamento, dovrebbero darci più sicurezza. Quindi parliamo alla lotta soprattutto al terrorismo e alla radicalizzazione, che è un grosso problema sicuramente oggi dell'Europa, la lotta alla criminalità organizzata che c'è già, c'è sempre stata, insomma dobbiamo unire forze anche qui, e la criminalità informatica. Quindi ci saranno, sono già stati varie proposte, ci saranno anche altre proposte per combattere tutti questi fenomeni a livello europeo. Hai scelto una vignetta più che una foto, perché comunque la satira europea, insomma, ha dato una, sì, fortissima risposta a colpi di matite. Assolutamente sì. Noi fra l'altro nella rappresentanza abbiamo una grande tradizione di collaborazione con vari vignettisti e penso che questo spezza un po' anche a volte i temi che sono difficilmente spiegabili o in altri termini, quindi sì, ho scelto questa. La seconda fotografia invece cosa riguarda? La seconda è quella che ci ha colpiti tutti quanti e che è andata, ha varcato anche i confini dell'Europa, che è quello del piccolo Aylan, che ha veramente scosso le coscienze. Quindi il tema dell'immigrazione, il problema dell'immigrazione, ma anche l'opportunità dell'immigrazione, perché ricordiamoci che c'è anche questo, e quindi la risposta, ho scelto questa foto drammatica perché era quella che ci ha scossi, come ho detto, quindi che ci ha permesso di capire che dobbiamo affrontarlo tutti insieme, che è un problema e anche un'opportunità tutta nostra. Quindi la Commissione a maggio, in risposta non a questa vicenda, ovviamente stava lavorando, questo è solo il simbolo di quello che sta succedendo, il più drammatico, ha proposto la sua agenda della migrazione. Quindi in prima cosa ha dato una risposta immediata, quindi quello di salvare le vite all'immediato, quindi ha rafforzato il Frontex, ha dato più mezzi eccetera eccetera, quindi quello da un lato, e poi ha presentato tutta una agenda omnicomprensiva, di nuovo 360 gradi, perché il problema dell'immigrazione va affrontato in tutti i suoi aspetti, quindi non solo quelle drammatiche, le vite eccetera, ma anche l'immigrazione irregolare, ma anche l'immigrazione regolare, quindi aumentare quelli che sono i canali legali per far venire queste persone che hanno diritto alla protezione internazionale, in tutto ciò anche una policy o una implementazione di quello che è la politica di asilo europea, che esiste già ma non sempre viene implementata nel modo corretto, quindi tutta una serie di, e poi abbiamo visto che su questo gli stati membri si sono mossi molto velocemente, sì. È stato anche un tema molto dibattuto nei media durante tutto l'anno, bisogna dire, perché si parlava di ricollocazione, abbiamo sentito questi litigi a livello degli stati membri su chi, come, perché eccetera eccetera, quindi mi fermo, è molto difficile il compito di riassumere l'anno lo so che insomma, la sintesi è una richiesta tosta in questo momento, è tostissima. La terza foto invece è chiusura, che ci porta nel futuro. La terza foto, ho scelto un'infografica. Cioè, volevo scegliere tre immagini più che foto, quindi ho scelto un'infografica che spiega, o spero che spiega un po' meglio, quello che è il piano Juncker, perché sicuramente la terza sfida dell'Europa di quest'anno, non solo di quest'anno ma sicuramente anche di quest'anno, è la crescita, che dobbiamo ritrovare la crescita per uscire dalla crisi, ne sentiamo parlare adesso forse un po' meno, stiamo riprendendo piano piano, e l'Europa, cioè la Commissione Europea, ha messo sul tavolo un piano concreto di crescita che si chiama piano Juncker, dal nome del presidente. Questo piano prevede dei finanziamenti agevolati, dei prestiti per quello che sono le aziende innovative e le start-up, quindi sì. Quello che normalmente ha più difficoltà a trovare finanziamento, perché sono finanziamenti di solito più rischiosi. Del resto, il 21 dicembre, quindi di recente, sono stati firmati due accordi a livello dell'Italia che daranno accesso reale alle soprattutto alle piccole e medie imprese italiane, attraverso appunto questi prestiti garantiti. È stato un accordo firmato con la Cassa Depositi e Prestiti, con la Banca Europea di Investimenti, Commissione Europea e ovviamente governo, sì. Per fare appunto far partire, quindi far dare, per fornire circa 1 miliardo di euro a sostegno delle piccole e medie imprese italiane. Quindi un'opportunità concreta, esatto. Adesso sta poi ai giovani, e non solo, trovare il modo per rendere questa opportunità qualcosa di operativo e reale. Grazie davvero a Evelina Jelenkowska, capo settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il suo mini calendario dell'anno che è stato. Ciao Evelina, buon 2016. Ciao. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carta de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Born to us this Christmas day, sing, fum, fum, fum. In the cradle there he lay, sing, fum, fum, fum, fum. In a manger, lowly angels holy came to praise this morn. Set the joyous bells are ringing on this day when we are singing. Boom, boom, boom. Veni, veni, pastorcitos. Boom, boom, boom. Veni, veni, pastorcitos. Boom, boom, boom. Veni con la pandereta y castañuelas al portal. Sonorità catalane invece per introdurre e dare il benvenuto ad Andrea Pipino, responsabile delle pagine europee del settimanale internazionale. Ciao Andrea, buon Natale, ben ritrovato all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti, auguri anche a voi. Beh, tu ne hai viste tante di immagini quest'anno, perché appunto quotidianamente lavori proprio per selezionare le notizie più significative. Quali tre scatti hai scelto per noi? Allora sì, cominciamo, ho deciso di metterli in ordine cronologico, quindi cominciamo con quello appunto catalano che riguarda una foto in particolare della Diada, che è la marcia che ogni anno si organizza in Catalogna per celebrare appunto la festa nazionale della nazione catalana. Centinaia di migliaia di persone, secondo alcuni anche più di un milione, quest'anno a settembre hanno manifestato appunto a Barcellona per chiedere, per ribadire che la Catalogna è una nazione, per chiedere in particolare l'indipendenza. Ora è un tema questo dell'indipendenza spagnola che negli ultimi giorni tra l'altro è tornato di grande attualità, particolare dopo la vittoria di Podemos alle elezioni spagnole, ed è una questione che non è affatto risolta, perché dopo, pochi giorni dopo quella grande manifestazione in Catalogna, si è votato per delle elezioni regionali che, diciamo, gli indipendentisti hanno trasformato in una specie di referendum informale sull'indipendenza, un referendum che, ricordiamolo, nel 2014 il governo di Madrid non aveva concesso, rispettando in questo modo anche la Costituzione spagnola. Ebbene, gli indipendentisti hanno vinto quelle elezioni, ma non hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, eppure nonostante tutto hanno cominciato in Parlamento, nel Parlamento catalano, un processo che in teoria dovrebbe condurre all'indipendenza. Diciamo che questa è una situazione di muro contro muro che si è creata negli ultimi mesi e che non è solo esclusivamente responsabilità dei catalani, perché è vero che l'establishment di Madrid e in particolare i popolari, diciamo, hanno sempre trattato con arroganza politica e fin anche culturale in alcuni momenti tutto quello che ha a che fare con il catalanismo. Come dicevamo, però, il risultato elettorale dei giorni scorsi potrebbe cambiare le cose, perché a quanto pare il partito di Iglesias è favorevole a una riforma costituzionale che cambia anche l'assetto territoriale del paese, e sul tema è possibile che sia pensabile un certo tipo di dialogo con i socialisti. Però ecco, bisognerà vedere chi andrà al governo, cosa succederà in questi giorni e quali saranno gli equilibri che verranno fuori. Andrea, ti chiedo adesso un attimo di pazienza, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te con le altre due fotografie. L'altra Europa. Ancora buon Santo Stefano da Federico Taddia, l'Altra Europa, puntata speciale. Stiamo facendo un calendario dell'anno che è stato, tante voci, tante firme. Siamo insieme ad Andrea Pipino, responsabile delle pagine europee di Internazionale. Anche a lui abbiamo chiesto di scegliere tre scatti, tre fotonotizie dell'anno. Siamo alla seconda fotonotizia. Andrea, cosa ci proponi? Una cosa che è successa in Romania alla fine di ottobre, esattamente il 30 ottobre, un fatto di cronaca terribile che però ha innescato una reazione a livello di società civile molto virtuosa. La foto che abbiamo scelto è la foto di migliaia di persone, soprattutto ragazzi, che manifestano nel centro di Bucarest gridando lo slogan "La corruzione uccide". Perché? Perché pochi giorni prima, esattamente il 30 ottobre, la notte del 30 ottobre, in un club della capitale romena che si chiama Club Collective, anzi si chiamava perché ovviamente è stato chiuso, un incendio durante un concerto ha fatto più di 60 morti. Sì. Dicevamo, questo terribile fatto di cronaca di cui si è parlato anche qui in Italia è stato seguito da una grande presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica che ha portato a manifestazioni che sono durate più di un giorno, settimane addirittura, e poi alla fine alle dimissioni del governo. La corruzione, dicevamo, che è un dato essenziale, perché la tragedia molto probabilmente è legata a controlli mai fatti, permessi rilasciati con troppa leggerezza, controlli che non sono mai stati fatti, autorizzazioni che non andavano rilasciate. Ma la mobilitazione che c'è stata però dopo questa tragedia non è stata innescata solo da questo fatto, perché possiamo anche pensare che sia l'ultimo episodio in un percorso che è durato anni e che ha portato, diciamo, alla nascita di un movimento di opinione che ormai è impossibile ignorare in quel paese. In parte sono le stesse istanze che erano venute fuori, se ricorderete, qualche 2-3 anni fa, ai tempi di un'altra grande mobilitazione per evitare l'apertura di quella che doveva essere la più grande miniera d'oro a cielo aperto in Transilvania, a Roșia Montană. Ebbene, quella mobilitazione ha avuto successo e diciamo che è uno degli episodi che hanno segnato il risveglio della coscienza civile di un paese che per la verità negli ultimi 20 anni, dopo la rivoluzione del 1989, sembrava quasi aver sviluppato un atteggiamento cinico e molto distaccato verso tutto quello che avesse a che fare con l'impegno politico. E invece davanti a momenti, esatto, davanti a tragedie come l'ultimo caso, c'è una sorta proprio di risveglio e di voglia di rimettersi in gioco, di far sentire la propria voce. Che è un fenomeno che ha riguardato la Romania, ma in forme diverse negli ultimi 2-3 anni ha riguardato diversi altri paesi dei Balcani. Ci ricorderete, ci sono state grandi manifestazioni in Bulgaria, che anche lì hanno fatto cadere il governo, in Bosnia, in Macedonia negli ultimi mesi. Questo per dire che, insomma, le dinamiche che arrivano dai paesi dell'est non sono semplicemente quelle di partiti xenofobi che vincono le elezioni, ma quelle anche sono società molto complesse nelle quali succedono cose che molto spesso qui non arrivano, o comunque alle quali non dedichiamo forse l'attenzione che meriterebbero. E non siamo capaci probabilmente neppure di leggere nel giusto modo. La terza notizia invece, per andare a chiudere. La terza notizia è recente, è una foto che è stata scattata a Istanbul il 15 dicembre in cui si vedono un gruppo di persone, uomini e donne, che discutono seduti intorno a dei tavoli all'aperto. Sono i giornalisti di un quotidiano che si chiama Cumhuriyet e stanno tenendo la loro riunione di redazione davanti al carcere di Silivri a Istanbul. Perché in quel carcere sono detenuti da circa 3 settimane ormai, forse dalla fine di novembre, il loro direttore, che si chiama Chandundar, e il capo della redazione di Ankara di quel giornale, che si chiama Erdemgul. Sono entrambi accusati di spionaggio perché hanno pubblicato diversi mesi fa un'inchiesta secondo la quale i servizi turchi hanno consegnato armi ad estremisti islamici in Siria in funzione anti-Assad. Quando questa cosa successe, il presidente Erdogan gliela giurò, gli disse: questa cosa la pagherete. Ed effettivamente qualche mese dopo sono arrivati gli arresti. Diciamo che questa foto l'abbiamo scelta perché è un emblema della preoccupante svolta autoritaria del governo turco, il governo del presidente, oggi presidente Recep Tayyip Erdogan, che è un governo che fino a pochi anni fa era considerato, diciamo, all'avanguardia, quasi un modello per le altre democrazie del Medio Oriente. Però le cose sono radicalmente cambiate. Sì, è una visione assolutamente da rivedere. Grazie Andrea, con questa immagine appunto ci hai portato nella strettissima attualità. Internazionale.it, come sempre, il sito. Un grazie ad Andrea Pipino, responsabile delle pagine europee. Buon anno Andrea. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. O Tannenbaum, wie grüße deine Blätter. Du grüßt dich nur zur Sommerzeit, nein auch nur im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum. E con questa musica tedesca diamo il benvenuto a Michael Braun, politologo e giornalista, già nostro ospite qui all'Altra Europa. Da pochissimo ha pubblicato Mutti, Angela Merkel spiegata agli italiani, edito con La Terza. Ciao Michael, buon Natale anche a te. Ciao, buon Natale a voi. Stavi canticchiando? No, veramente no. Allora, anche a te abbiamo chiesto di scegliere 3 immagini che hanno contraddistinto questa annata. Ovviamente il tuo è un occhio tedesco, quindi anche le immagini da lì arrivano. Cosa hai scelto? Ma forse la prima immagine ci porta al tema che ha dominato la politica tedesca almeno della seconda metà dell'anno e la sta dominando ancora, ed sono delle persone che all'arrivo di centinaia di rifugiati innalzano dei cartelli welcome, benvenuti. Noi questa foto ci porta uno sviluppo che ha interessato soprattutto la Germania, e vorrei dare solo una cifra ed è 1 milione. Abbiamo superato ormai a dicembre 1 milione di arrivi di rifugiati migranti provenienti soprattutto per la rotta balcanica, cioè partiti dalla Turchia e poi hanno attraversato la Grecia, la Serbia, in parte l'Ungheria, in parte la Slovenia, e infatti siamo arrivati ad 1 milione di arrivi. E l'argomento che più che ogni altro in questo momento interessa i tedeschi e la politica tedesca. Insomma, bellissima foto. Il secondo scatto invece qual è? Il secondo scatto forse è strettamente legato a questo, ed è la copertina di Time di poche settimane fa, con quel ritratto un po' stilizzato della cancelliera tedesca Angela Merkel, che infatti è stata nominata dal Time Magazine persona dell'anno, e hanno argomentato che l'hanno scelta in quanto cancelliera del mondo libero, e senz'altro proprio le sue decisioni su i rifugiati hanno contribuito molto, perché fra agosto e settembre lei si mosse in perfetta solitudine, aprendo le frontiere tedesche, dicendo noi accettiamo i rifugiati siriani. Va detto che poi non erano solo siriani, erano pure pakistani, afghani, gente dei Balcani, al Kosovo, dalla Serbia, eccetera. Senz'altro ha colpito molto l'immaginario collettivo, non solo in Germania, non solo in Europa, ma addirittura anche negli Stati Uniti. Esatto, questa scelta del Time secondo te ha sorpreso di più i tedeschi o ha sorpreso di più il resto del mondo? Ma non so neanche se ha sorpreso tanto. Va detto che è una scelta che si dirige verso un personaggio importante, non per forza nel bene ma anche nel male, perché lei batte chi? Al-Baghdadi come primo e come secondo Trump, Donald Trump. Quindi Time si chiede chi ha inciso di più nell'anno con le sue politiche, e senz'altro quelle mosse di Angela Merkel hanno avuto un fortissimo impatto anche sull'Europa. Assolutamente. Tutto da vedere se è un impatto positivo, perché ci troviamo in una situazione di stallo sulla politica dei rifugiati e dei migranti. Gli ultimi vertici europei in fondo sono finiti con un nulla di fatto, e questa speranza tedesca, la speranza della Merkel di arrivare a delle soluzioni condivise in Europa, finora non si è avverata. La terza immagine invece, per andare a chiudere il tuo mini calendario dell'anno? La foto di un marchio, la famosa il cerchio con dentro la V e la W, il simbolo della Volkswagen, leader dell'industria tedesca, campione dell'export, che però quest'anno ha brillato per tutt'altro che per cifre economiche talmente particolarmente esaltanti, ma per l'arte ingegneristica nel truccare i software sui valori di inquinamento dei motori, e quindi ha procurato alla Germania, alla Volkswagen stessa, un mega scandalo che potrà costare decine di miliardi di euro. Sì, direi che l'abbiamo bene impressa quell'immagine, quel marchio. Grazie davvero Michele, come sempre, per il tuo contributo. Buon 2016 e a risentirci qui all'Altra Europa. Ciao. Grazie, buon anno. Ciao. Buon anno a te. Ciao. Ancora musica. musiche tradizionali europee per questa puntata di fine anno, dove stiamo facendo il nostro calendario, lo stiamo facendo grazie ai contributi di tanti amici e amiche dell'altra Europa. Abbiamo il piacere di ospitare ora Giovanna Pancheri, corrispondente Sky da Bruxelles. Ciao Giovanna, buon Natale. Buongiorno e a tanti auguri anche a te Federico, ciao. Beh, tu l'Europa la vivi da lì, la vivi, cerchi di essere una sorta di anello tra il palazzo e quello che c'è fuori dal palazzo, lo fai con estrema professionalità, quindi mi interessava avere anche appunto il tuo aiuto. Quali immagini, quali scatti hai scelto per raccontare questo 2015? Beh, innanzitutto grazie Federico, ho scelto sicuramente tre argomenti che secondo me hanno segnato moltissimo l'Europa in questo anno e argomenti in parte positivi ma purtroppo anche negativi. Anzitutto la crisi dei migranti e la Grecia. Vorrei parlarti prima di questi due argomenti che sono forse quelli che hanno toccato di più anche le istituzioni europee in un doppio senso, perché la Grecia forse ha fatto apparire il volto più negativo, se vuoi, dell'Europa. Mentre la crisi dei migranti è stata in grado di mostrare una cosa molto bella, e cioè che le istituzioni europee, nel momento in cui hanno la possibilità di agire, forse sono l'uniche che di fronte a queste situazioni, secondo me, riescono comunque almeno a mettere sul tavolo delle soluzioni. La crisi dei migranti è stata forse una sorpresa da questo punto di vista, anche rispetto alla reazione di alcuni paesi. Una Germania molto aperta, come sappiamo, che ha dato, è stato un po' anche in questo caso il traino rispetto agli altri per accogliere queste persone, però senza le istituzioni europee forse non avremmo avuto un piano che almeno è stato messo sul tavolo, a prescindere dal fatto che poi funzioni o non funzioni, ma almeno c'è, e questo secondo me è un dettaglio non da poco. Prima con la ridistribuzione 40.000, poi con quella dei 120.000, e soprattutto ha avuto anche una grande influenza a vedere queste persone, vedere i bambini con gli stessi giochi che usiamo noi, con gli orsacciotti in mano, insieme ai loro genitori. Ecco, questa è stata una cosa che ha colpito tanto e che ha scosso in qualche modo le coscienze. Persino quelle, per esempio, di Cameron. Pensiamo che dopo determinate foto, dopo determinate immagini, anche il Regno Unito, molto più vivo, ha deciso in qualche modo di aprire, tra l'altro andandoli a prendere in Turchia, non diciamo nel piano di distribuzione dei rifugiati, e questo è un dettaglio importante. Certo. Giovanna, ti chiediamo un minuto di pazienza, è il momento del traffico, poi torniamo immediatamente da te con le altre due immagini. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Giovanna Pancheri, corrispondente da Bruxelles per Sky TG 24. Altre due immagini da aggiungere al nostro calendario europeo. Giovanna, qual è il secondo scatto? Il secondo scatto è sicuramente il pensionato in Grecia di fronte alla banca crisi. E se in qualche modo, secondo me, come stavamo dicendo, le istituzioni europee sono riuscite a mostrare la capacità di mettere in piedi almeno delle sorte di soluzioni per quanto riguarda i migranti, anche dimostrare un volto umano, ecco, con la Grecia è stato esattamente il contrario quanto accaduto, perché sicuramente questa crisi è stata la vera prova dell'Eurozona, la prima vera prova dell'Eurozona, soprattutto quanto accaduto quest'estate, e alla fine si è fatto pagare moltissimo a Tsipras, se vogliamo, la sua alzata di testa, perché è ovvio che la decisione di fare un referendum nel momento in cui si stava negoziando, in cui si stava cercando di trovare comunque l'intesa, è stata accolta in modo molto negativo, però probabilmente la punizione che poi è stata data all'accordo che è stato fatto accettare e anche in qualche modo la chiusura delle banche forzate per lungo tempo sono forse state una punizione ancora più forte rispetto allo sgarbo ricevuto. Quindi sicuramente la Grecia ha mostrato un volto non bello dell'Europa, un volto di un'Europa che cerca di in qualche modo difendere anche le proprie situazioni economiche, le proprie garanzie, e non riesce a volte a capire come questo sia negativo anche per l'immagine che poi trasmette al di fuori e poi per i cittadini europei come tali, che non hanno accolto bene l'Europa in Grecia e come il suo comportamento d'Europa in Grecia. Ci si dimentica un po' dell'Europa, delle persone. La terza immagine invece con la quale chiudiamo la tua raccolta, qual è? È un'immagine del Bataclan, perché gli attentati di Parigi, a partire da quello di gennaio e poi ovviamente con l'ultimo il 13 novembre, hanno portato ad un grande cambiamento in Europa. E lo vediamo banalmente prendendo un treno. Io ho potuto coprire anche la situazione a Parigi, perché sono appunto corrispondente per l'Europa, quindi non copro solo Bruxelles, sì, ma anche la Francia. E mi ha colpito molto, ad esempio, trovare in un treno che io prendo sempre, che è quello tra Parigi e Bruxelles, improvvisamente il controllo dei passaporti. Gli attentati di Parigi hanno avuto anche tra le loro vittime, a parte il terrore che sono riusciti a generare, a parte il fatto che ci siamo resi conto che non si colpiscono degli obiettivi come poteva essere a gennaio, in qualche modo precisi, ma che veramente tutti noi possiamo essere vittime di quanto di questo terrore che si sta cercando di portare in Europa, ecco, sta anche minando le libertà che noi consideriamo come acquisite, e quindi anche l'Europa unita, la libera circolazione rischia di essere una delle vittime di questo terrorismo. Speriamo di avere un 2016 migliore. Grazie davvero a Giovanna Pankerin, buone feste, buon lavoro che sarà tanto e intenso per i prossimi mesi. Ciao, grazie. Grazie, buon anno. Croata per accogliere l'ultima voce di questa puntata speciale dell'Altra Europa, dedicata a un calendario che abbiamo realizzato grazie alle tante foto che colleghi e colleghe ci hanno donato per appunto riassumere l'Europa che è stata. Diamo il benvenuto a Eva Giovannini, giornalista e autrice di Europa Anno Zero, il ritorno dei nazionalismi, edito per Marsiglio, e uno dei libri che meglio in questi mesi ha raccontato e ha fotografato quella che l'Europa per davvero è. Ciao Eva, ben ritrovata all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti voi. Buon Natale intanto. Allora Eva, quali immagini hai scelto per questo nostro calendario? Allora, io ho pensato alla foto di una marcia, di una carezza e di un calcio. Partirei da una marcia, che ovviamente anche in ordine cronologico era l'11 gennaio, Parigi, la marcia di Charlie Hebdo. 2 milioni di persone in piazza in seguito appunto ai morti di Charlie Hebdo e per cantare la libertà. È stata una marcia molto commovente, appunto io ero lì a quel giorno, e però c'era già qualcosa di strano in quella manifestazione. La foto dei leader, no? Tutti i leader, capi di Stato e di governo che quel giorno erano lì, è già un po' un simbolo dell'incoscienza. Da una parte un'incoscienza ovvia, perché nessuno poteva immaginare che da lì a pochi mesi si sarebbe replicato questo tragico evento con molti più morti appunto il 13 novembre. Però c'era già un'incoscienza dolosa in quell'inquadratura, nell'inquadratura in cui si vede benissimo ad esempio il leader ungherese, il presidente Viktor Orban, sfilare nel Pantheon dei difensori della libertà. Mm-hmm. È bizzarro, perché lui da lì a 6 mesi avrebbe poi, 9 mesi avrebbe poi annunciato di mettere un muro, di far costruire un muro al suo confine, e già aveva fatto una riforma costituzionale che appunto aveva già stravolto gli assetti, diciamo, democratici, come appunto togliere i diritti, i poteri, pardon, alla Corte Costituzionale, alla Banca Centrale, o inserire leggi come appunto il divieto d'aborto in Costituzione. Sì, o una legge sulla stampa molto molto, che dire, bavaglio a dir poco, insomma. E quindi c'erano già delle contraddizioni in questa marcia. Insomma, sì, una presenza assolutamente contraddittoria, però un momento importante per la vita politica e non solo europea. La seconda immagine invece che hai scelto? È una carezza, è la carezza che il Presidente della Commissione Europea, Juncker, dà a Tsipras. È il 22 giugno a Strasburgo e lì c'è un incontro importante, un ennesimo incontro che sembrava essere insomma quello risolutivo e che poi ovviamente non lo era. In questa carezza, diciamo, c'è tutta la grammatica paternalistica, no, che l'Unione Europea ha avuto nei confronti della Grecia in questi sei mesi, da gennaio a giugno, quando poi c'è stato a luglio il referendum, una grammatica che si alternava a un linguaggio dell'aritmetica ma mai a un confronto alla pari. C'era sempre la sensazione che il governo greco, con tutti i suoi errori e le sue contraddizioni, però non avesse davvero voce in capitolo, cioè che fosse tutto un gioco delle parti. E effettivamente quella carezza è abbastanza simbolica. 8 giorni dopo c'era l'ultima tranche di rimborsi di crediti a rimborsare, e come sappiamo insomma è andata a finire che il referendum poi c'è stato ma non è servito assolutamente a nulla. Invece chiudiamo con un calcio questo calendario. Quale calcio? Il calcio, che è una videomaker di una TV vicina al partito di estrema destra ungherese Jobbik, dà a un padre con un bambino che stavano tentando di attraversare il confine ungherese. Probabilmente ce lo ricordiamo tutti, c'è anche un video, no, che ritrae questa sequenza agghiacciante. E devo dire però che quell'immagine è orribile, simbolo proprio della peggiore Europa, a quell'immagine ha fatto seguito un happy end, nel senso che poi quel bambino è riuscito ad arrivare in Spagna col padre. Cristiano Ronaldo l'ha accompagnato per mano all'ingresso della prima partita del Real Madrid contro Granada, e il padre, che era stato nel suo paese in Siria tecnico di una squadra che era stata due volte negli anni 90 campione nazionale, è diventato poi allenatore in Spagna. Quindi hanno trovato, diciamo, la loro terra che li ha accolti finalmente dopo essersi presi quei calci. Eva Giovannini, grazie davvero per queste tre foto. Un'ultima domanda, ti riporto un attimo nell'attualità. Il primo scatto del 2016 sarà uno scatto spagnolo. Le elezioni spagnole cambieranno qualcosa nello scenario europeo, o comunque ci dicono qualcosa? Sì, ci confermano un dato di fatto quasi, diciamo, trasversale, che il bipolarismo fa fatica ad affermarsi, e se si afferma è solo grazie alle leggi elettorali, perché ormai ci sono cosiddetti terzi poli, che in alcuni casi sono appunto come Podemos, che guarda più a sinistra, in molti casi, il mio libro tratta di quelli, sono nazionalisti, sono movimenti di destra, però hanno scardinato, diciamo, gli equilibri europei, e quindi il voto spagnolo ci dice chiaramente che questa Europa o cambia o così forse muore. Europa anno zero, il ritorno dei nazionalismi, ve lo ricordo, edito da Marsilio. Grazie davvero Eva, buon anno, buon lavoro. Buon anno, grazie. Canzoni sono un po' il nostro augurio di buone feste, soprattutto di buon anno all'Europa. Vi ricordo che tutte le foto di questo nostro calendario le potete trovare sul nostro sito radio24.it, oppure sui nostri social network, Twitter e Facebook, @ Federico Taddia, i nostri account. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Silvia Arghini e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Filippo Aureggi invece alla parte tecnica. Ancora buon anno, ci si risente sabato prossimo, quando saremo già nel 2016. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.